fatta e la nonna che sghignazza mentre i gatti fanno la mo. Suona, suona la cornetta, con il chissimo languor, tanto dinna la civetta, col sassofono non tenor. Il violino innamorato, sotterrando suona ancora, il violino si è piattato su Polanda. Suona, suona, suona, suona, suona, suona, il maestro ancora non sa.